Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È una noia mortale. Questo coso è finto, si vede. Nel museo più grande del mondo. Ma guarda un po', il signor Pallone gonfiato in persona. Siamo a Washington, nel top del top dei musei. Ritroviamo vecchi amici. Lieto di rivederti, figliuolo. E nuovi nemici. Ivan il Terribile. Napoleon Bonaparte. Al Cabone. Signori, tremate. Sono tornato in vita! È il trailer del divertente film Una notte al museo 2, La fuga. Sequel del film campione di incassi in tutto il mondo Una notte al museo con Ben Stiller. Il titolo originale, Escape from the Smithsonian, fa riferimento al luogo nel quale è ambientato praticamente tutto il film. Il più grande complesso museale esistente, con 19 musei, 9 centri di ricerca, 168 affiliati in tutto il mondo e oltre 30 milioni di visitatori all'anno. La Smithsonian Institution. Fondata nel 1846 a Washington per volontà dello scienziato americano James Smithson, che volle creare con il suo lascito un centro per la diffusione e l'incremento della cultura, la Smithsonian Institution ha al suo attivo oltre 137 milioni di opere d'arte, oggetti e reperti storici, 6 milioni e mezzo di registrazioni digitali e oltre 2 milioni di volumi. Un patrimonio di informazioni unico, come sottolinea Andrea Lauter, direttrice dei servizi per i visitatori del museo. Una visita al nostro museo è un sistema fantastico per imparare a conoscere la storia americana. Le nostre collezioni e i programmi di informazione raccontano la storia di individui il cui coraggio e la cui ispirazione hanno lasciato un segno in tutti noi. Pensiamo che questo sia il modo migliore per rendere interessante il nostro passato e farlo così conoscere alle nuove generazioni. La caratteristica saliente dello Smithsonian Museum è quella di non essere un luogo di raccolta di manufatti e prodotti artistici semplicemente disposti in bella mostra. È un museo interattivo che rende il visitatore partecipe di quanto sta vedendo. Una visita alle sue sale non lascia indifferenti e rappresenta un'esperienza indimenticabile. Ma soprattutto gli oggetti che trovano posto nelle bacheche di vetro posizionate nei diversi settori offrono un panorama molto interessante delle attività americane nel corso degli anni. Nella sezione degli oggetti con un valore storico, ad esempio, il visitatore può vedere con i propri occhi il finestrino infranto di un autobus durante le proteste studentesche degli anni 70, il primo segnale di stop posizionato a un incrocio nel 1920, il primo phone degli anni 40 e la prima carta di credito datata 1958. È possibile vedere quanto fosse grande il primo mouse, costruito nel 1963, e perfino ammirare dal vivo il vero C-3PO, il droide antropomorfo di Star Wars. Ehi, non puoi entrare là dentro, è zona riservata. Ti disattiveranno, vedrai. Non darmi del filosofo senza cervello, mucchio di grasso lubrificante. Vieni via prima che ti vedano. Missione segreta? Quali piani? Di che stai parlando? Io là non ci entro. No. Me ne pentirò amaramente. Fra i tanti oggetti curiosi e inconsueti, i visitatori vengono colpiti senza ombra di dubbio da un quadretto che incornicia quattro gomme da masticare confezionate. Si tratta delle Wrigley's, al sapore di menta, doppia menta e due gusti alla frutta. Chewing gum molto noti, soprattutto negli Stati Uniti. Nata nel 1891, la Wrigley's Company è un'azienda padronale fondata da William Wrigley, che produce gomme da masticare, caramelle dure e morbide, mentine, lecca-lecca e cioccolato. Nel panorama dei raggiungimenti dell'industria americana, è indubbiamente interessante ricordare, a fianco di prodotti alimentari storici come le bevande più note, i fast food, le salse e i liquori, un prodotto che tutti consumano con grande profusione, la gomma da masticare. Ma viene da domandarsi perché proprio queste Wrigley's trovano una collocazione così importante nel museo più grande del mondo e sono state scelte a rappresentare la categoria dei chewing gum, delle caramelle e dei lecca-lecca. La la la. Nelle sale degli archivi dello Smithsonian Museum di Washington, che ospitano i raggiungimenti più significativi degli Stati Uniti d'America, trova posto un quadretto che incornicia quattro gomme da masticare della Wrigley's Company. La particolarità di questi chewing gum, quella certa caratteristica che li pone tra le invenzioni più importanti della storia d'America, non risiede nella loro qualità organolettica, indubbiamente eccelsa, né tantomeno nel loro packaging, sebbene esso sia unico ed estremamente differenziante. Il primato tutto particolare che ha spinto i curatori del museo a esporre quei chewing gum non si trova sul davanti, ma sul retro dei pacchettini di gomme. Si tratta di un piccolo rettangolo bianco che contiene alcune righe e dei numeri apparentemente senza senso, ma che invece un senso ce l'hanno. E come? E ora ascoltate questo suono. Senza dubbio lo avrete riconosciuto. Chiunque faccia la spesa in un supermercato, compri un qualsiasi oggetto in un centro commerciale, acquisti un prodotto alimentare o un bene di largo consumo, ascolta sempre questo suono. Può darsi che non ci faccia caso, preso com'è a trovare i contanti per pagare o a tirare fuori la carta di credito dal portafoglio, o magari a riempire velocemente le borse della spesa prima che il cliente successivo scalpiti perché tocca a lui. Ma quel suono c'è stato. E c'è stato perché ad ogni acquisto il prodotto comprato viene fatto passare sopra un lettore laser che è in grado di decifrarne il codice. Come se si trattasse di un vero e proprio documento, una carta d'identità, ciascun prodotto ha un suo codice definito che lo cataloga, lo determina e ne permette il controllo totale. Questo codice si chiama barcode. Provate a guardare fra i tanti prodotti che avete in casa. Il latte, la confezione del pan carré, l'ultimo libro che avete acquistato, la bottiglietta d'acqua con la quale vi state dissetando. Il codice a barre è sempre lì, da qualche parte, una sfilza di righe nere verticali più o meno spesse, intervallate da spazi bianchi e una serie di numeri sottostanti. Sembra sempre lo stesso, ma non lasciatevi ingannare. Ogni prodotto ha il suo. E non solo ogni prodotto, anche le persone possono averne uno. Ascoltate cosa racconta Mark Neuenschwander, consulente per la cura e salute presso il Ministero della Sanità degli Stati Uniti d'America. La definizione dei pazienti attraverso il barcode rappresenta un fatto che da qui al 2013 dovrà essere adottato in via globale nei nostri ospedali per poterci allineare all'interno dei nuovi standard di sicurezza. Sappiamo che il barcode definisce una serie ormai infinita di prodotti, servizi e beni di primaria importanza, ma l'utilizzo in campo medico ospedaliero trasforma questa invenzione in qualcosa di rivoluzionario, perché può salvare delle vite. Fin dal barcoding del paziente presso il letto di degenza per arrivare alla classificazione degli esami che gli vengono fatti e la sua accoglienza in un eventuale intervento chirurgico. Quei pacchetti di gomme da masticare esposti allo Smithsonian Museum di Washington rappresentano una rarità che ha tutte le caratteristiche per ben figurare tra gli oggetti più significativi d'America. Si tratta infatti del primo prodotto mai venduto al mondo con il barcode. Un'invenzione rivoluzionaria destinata a cambiare completamente il volto della catalogazione dei prodotti, dello stesso sistema di commercializzarli. Un'invenzione che oggi ha 1000 impieghi. È il 26 giugno 1974 e ci troviamo in un supermercato Marsh a Troy, nell'Ohio. Un uomo sulla cinquantina si aggira tra gli scaffali. Osserva con grande attenzione le file di prodotti in vendita, poi si dirige verso le casse, dove una grande quantità di persone si sta dando da fare intorno a una sua invenzione. Quel giorno se lo ricorderà per tutta la sua vita. Il suo nome è Norman Joseph Woodland. Il direttore del supermercato e la cassiera sono decisamente emozionati. Si sta per sperimentare un nuovo sistema di vendita che l'inventore prova per la prima volta in America, anzi nel mondo, e proprio nel loro supermercato. Se come si pensa si tratta di un'invenzione utile destinata a diffondersi un po' dovunque, beh, quello è un giorno proprio memorabile. Woodland tiene in mano un pacchetto di chewing gum della Wrigley's, al gusto di doppia menta. Sono gomme da masticare molto famose, vendutissime. Ma questo pacchetto è diverso dagli altri perché è dotato di un segno di riconoscimento unico, il barcode. L'inventore sembra parecchio assorto mentre aspetta che sia tutto pronto per il grande evento. Ed è vero, perché egli sta ripercorrendo la storia di quella sua invenzione, che risale addirittura a quasi 30 anni prima. Siamo alla Drexel University di Philadelphia, in Pennsylvania, un istituto privato che offre ai suoi studenti, oltre ai normali corsi di laurea, anche master in diverse discipline scientifiche. È considerata la migliore università americana per le opportunità post laurea che offre e ha un accordo di assunzione con coloro che terminano i corsi con profitto che la lega ad aziende quali la Goldman Sachs, la Microsoft, la Procter & Gamble. Chi frequenta in particolare i cosiddetti co-op, corsi retribuiti di transizione scuola-lavoro, ha il futuro assicurato. Il giovane Norman Woodland arriva alla Drexel University di Philadelphia in Pennsylvania nel 1940. Si è appena diplomato ad Atlantic City, la sua città, e ha scelto la facoltà di ingegneria meccanica. È una passione che ha fin da piccolino, quella per la meccanica, e sono anni che sostiene che prima o poi inventerà qualcosa. E la Drexel gli pare decisamente il posto migliore dove acquisire quelle informazioni che gli possono servire. I corsi che frequenta lo appassionano molto. Si sente finalmente realizzato e felice. Ma le notizie della guerra che imperversa tra Europa, Giappone e Unione Sovietica non sono affatto buone. Il giovane Norman sa molto bene che se mai il suo paese dovesse entrare nel conflitto, la patria lo richiamerebbe e i suoi studi subirebbero una frenata brusca. E questo non gli piace affatto. Poi, quasi sotto Natale, arriva la notizia che tutti temono. December 7th, 1941. A day of infamy. Even as Japanese diplomats were conferring the Secretary of State Hull on peace measures. È il 7 dicembre 1941. Le forze aeronavali giapponesi attaccano la base statunitense di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. Il bombardamento arriva senza una preventiva dichiarazione di guerra da parte del Giappone e causa di fatto l'intervento degli Stati Uniti nel conflitto mondiale. Come tanti altri giovani americani, Norman Woodland veste immediatamente la divisa, ma una sorpresa lo aspetta. Le sue conoscenze tecniche e la provenienza dalla Drexel University non passano inosservate. Norman viene indirizzato a una missione segreta a Oak Ridge, nel Tennessee, agli ordini del generale maggiore Leslie Grove. Quando Woodland arriva alla sua destinazione, non ha la benché minima idea di quello che lo attende, ma si accorge subito che si tratta di qualcosa di molto segreto. Tutte le attività militari che si svolgono a Oak Ridge sono avvolte dal riserbo più totale, e Norman scopre con grande sorpresa il perché. Stavano progettando già da alcuni anni, per l'esattezza dal 1939, qualcosa di davvero unico. Avevano scelto Oak Ridge perché aveva una scarsissima popolazione e in compenso era raggiungibile sia dalla ferrovia che dall'autostrada. Quello che facevano laggiù era separare l'isotopo uranio-235 dall'uranio naturale. Questo succedeva negli impianti K25, S50 e Y12. Nel sito X10 invece si produceva il plutonio. All'inizio eravamo pochi, ma arrivammo ad essere oltre 70.000. L'esercito costruì un'intera cittadina per noi, la chiamavano The Secret City. Quello a cui lavoravamo ci fu chiaro solo il 6 agosto 1945, quando fu sganciata la prima bomba atomica. Quello a cui viene destinato Norman Woodland è il famoso progetto Manhattan, programma di ricerca condotto dagli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale che porta alla realizzazione delle prime bombe atomiche. Diretto dal fisico statunitense Robert Oppenheimer, che compie esperimenti e ricerche da un segretissimo edificio situato nel quartiere di Manhattan a New York, il progetto nasce come semplice sperimentazione, per poi trasformarsi, nel 1942, in un programma effettivo che occupa oltre 130.000 persone e costa alla nazione qualcosa come 30 miliardi di dollari di oggi. Nomi illustri sono legati a questo progetto e alla scissione nucleare che porta alla creazione di armi atomiche, da Enrico Fermi a Niels Bohr, allo stesso Albert Einstein. Il risultato è Little Boy, la prima bomba atomica sganciata su Hiroshima alle 8:15 del 6 agosto 1945, e Fat Man, il secondo ordigno nucleare, sganciato il 9 agosto successivo alle 11:02 sullo stabilimento Mitsubishi di Nagasaki. Tutti coloro che lavorano al progetto Manhattan sono all'oscuro delle reali intenzioni del governo, Norman Woodland compreso. Quando le bombe sono pronte, viene addirittura firmata una petizione fra gli oltre 130.000 lavoratori che chiedono il lancio sperimentale su un territorio non abitato. ecco il ricordo di William Lanuet, autore del libro Genius in the Shadows, che racconta la genesi del disastro nucleare. Il generale Grove sentì della petizione e ordinò che non fosse fatta circolare tra i suoi militari. Poi, per contrastare questa petizione, condusse addirittura un'indagine tra gli scienziati che avevano lavorato al progetto atomico, chiedendo loro cosa ne pensavano dell'idea di fare una dimostrazione degli effetti della bomba. Secondo quanto riportò poi Grove, l'83% degli intervistati disse che una dimostrazione di quel tipo aveva senso se effettuata su centri abitati. La petizione fu quindi congelata e tirata fuori soltanto dopo lo sgancio delle bombe. Gli eventi storici successivi sono ben noti. Il 2 settembre 1945 il Giappone firma la resa incondizionata e il conflitto mondiale termina dopo 6 anni dal suo inizio. Norman, come tantissimi altri militari americani, torna a casa. Certo, l'esperienza della guerra ha cambiato molto la realtà che il giovane trova al suo rientro, ma lui ha le idee chiare. I suoi studi l'attendono all'Università Drexel, dove ritrova i compagni di prima della guerra. Ha solo 24 anni e tutto sommato non ha perso troppo tempo. Quello che ha fatto durante il periodo del conflitto gli ha insegnato molto e sebbene non sia affatto d'accordo con quanto è avvenuto, si può considerare più avanti di tutti gli altri suoi colleghi. Mentre assiste a una lezione di meccanica applicata, Norman ha la netta sensazione di essere circondato da ragazzini. Chi non ha avuto le esperienze che ha vissuto lui gli appare piccolo, inesperto. Tutti tranne uno, è parecchio giovane, ha solo 21 anni, ma frequenta l'ultimo anno di corso insieme a lui e presumibilmente si laureerà nella sua stessa sessione. È un tipo in gamba e presto i due fanno amicizia, un sodalizio di studi che li porterà presto molto, molto lontano. My star, and you never give my love away. Always hold on, and watch our foot together. Let no one break us under when I'm far away. She always waits. Destini incrociati. We've made literally hundreds of changes in our Pantry Pride supermarkets to help make your shopping experience more pleasant. But you know what I'm most proud of? It's our people. Warm, friendly, dedicated people. I invite you to come see the difference. Quello che abbiamo appena ascoltato è uno spot degli anni 80 della catena di supermercati americani Pantry Pride, che oggi non esiste più. Eppure questi supermercati, fondati negli anni 20 dall'emigrato russo Samuel Friedland, che li chiama allora Food Fair, sono una realtà importantissima nell'America del dopoguerra. Partito con un piccolo negozietto di discount in Pennsylvania, Friedland arriva a possedere negli anni 60 ben 500 negozi in tutto il paese. Anche a Filadelfia ci sono diversi punti vendita del supermercato e sono parecchi gli studenti e i professori della Drexel University che li frequentano. Fra gli altri anche Norman Woodland, studente dell'ultimo anno di ingegneria meccanica, un giovane incredibilmente promettente che nel periodo della guerra, il secondo conflitto mondiale appena conclusosi, ha partecipato al famoso progetto Manhattan, che ha portato alla realizzazione della bomba atomica. Ritornato all'università nel 1945, Woodland si sente più avanti dei suoi compagni che non hanno vissuto quell'esperienza. Anche se lui non ha combattuto perché di stanza a Oak Ridge, sede di un distaccamento militare del Manhattan District, dove si producono uranio e plutonio, le situazioni vissute lo hanno fatto crescere. L'unico studente con il quale Norman si trova veramente bene è un ragazzo che ha 3 anni meno di lui, ma è molto avanti negli studi, tanto che frequenta il suo stesso corso di laurea. Il suo nome è Bernard Silver. Bernard Silver. Mentre i due stanno seguendo una lezione di analisi matematica, fanno progetti sul loro futuro. Sono entrambi convinti di poter inventare qualcosa che sia collegato agli studi che stanno compiendo in campo meccanico ed elettronico. Anche Bernard, come Norman, ha una passione sfrenata per tutto quello che è collegato all'ingegneria, alle nuove tecnologie e ai motori. E nel suo campo è un vero maghetto, fin da giovanissimo. Originario della Pennsylvania, Bernard, che i familiari chiamano Bob, è un bambino tranquillo. Non fa altro che disegnare apparecchiature. Nessuno ci capisce niente in quello che disegna, forse neanche lui, ma non importa. Un giorno ci capirà. La sua idea di andare alla Drexel University si può dire che nasca con lui, e quando finalmente riesce nel suo intento, brucia tutte le tappe e si lancia a capofitto nello studio. Mi ero iscritto a ingegneria elettronica, ma mi interessava tutto. La meccanica in particolare è una materia che mi ha sempre affascinato. E poi adoravo i motori. Le tecnologie del futuro mi ammaliavano. E ho sempre pensato, che grande fortuna ho avuto ad essere nato nel secolo delle grandi scoperte. Con Norman Woodland, che Bob chiama Joe, abbreviando il suo secondo nome Joseph, nasce un'amicizia molto forte. Anche se Joe è più grande, anche se ha fatto la guerra che Bob ha solo visto marginalmente, i due hanno le stesse passioni e un pallino che li accomuna. Sognano di diventare inventori. Il periodo post-bellico, gli anni della ripresa economica, sono in effetti estremamente stimolanti, specie per i giovani. L'America è in fermento ed è questo il periodo delle grandi scoperte tecnologiche. Norman ha lavorato al progetto Manhattan ed è rimasto parecchio toccato dall'esito devastante del suo lavoro, le bombe atomiche, anche se sa perfettamente di non averne alcuna colpa. Ora, pensare a uno sviluppo delle proprie conoscenze in campo civile lo appaga moltissimo. La convinzione quasi maniacale dell'amico Bob di inventare qualcosa che renda la vita di tutti i giorni più semplice e piacevole diventa anche il suo pensiero dominante. Norman Woodland e Bernard Silver si laureano entrambi in ingegneria alla Drexel University di Filadelfia. È il 1947 ed è l'inizio di un periodo di grande fermento in molti campi, in particolare quello tecnologico. I due giovani ricevono entrambi l'offerta dall'università di tenere un corso, Norman in ingegneria meccanica, Bernard in fisica. È una proposta allettante. I due giovani stanno bevendo una birra al pub dell'università e ne parlano. Certo, per loro vorrebbe dire due cose: avere immediatamente un posto di lavoro sicuro e un introito economico garantito. E in secondo luogo, l'opportunità di continuare i propri studi insieme per portare a compimento il loro sogno, firmare un'invenzione. I due hanno deciso, accettano la proposta della Drexel e siglano il loro patto personale con una sonora bevuta. Solo qualche giorno dopo, mentre Norman è in classe, Bernard si trova in aula a professori e assiste a un colloquio che si svolge fra il preside e un suo amico che Bernard riconosce subito. È il direttore del supermercato Food Fair, dove tutti loro fanno regolarmente la spesa. Il direttore sta facendo al preside una richiesta alquanto strana. Tu non hai idea del tempo che perdiamo per fare cose come registrare i prodotti, stabilire quanti ne abbiamo venduti e quanti ne restano in magazzino, semplicemente prezzarli e fare il conto alla cassa quando li vendiamo, fare gli acquisti senza commettere errori. Certe volte diventiamo matti, anche perché ci sono sempre più articoli e ce ne saranno sempre di più. Non so proprio come potremo fare. Ma tu, scusa, con tutti questi studenti e professori che ti ritrovi, non potresti metterli sotto a studiare un sistema, qualcosa che possa catalogare con velocità e senza rischi di errori i prodotti? Sarebbe una rivoluzione senza precedenti. Il preside della Drexel University è un uomo di una certa età, un grande professore, una persona di indubbia cultura, ma forse un po' tradizionalista. Alla domanda dell'amico risponde che gli pare arduo, se non impossibile, trovare un sistema del genere. Ma per Bernard Silver, che è testimone di quella conversazione, sembra un segno del destino. In fondo lui non aspettava altro. La sfida del secolo, ecco come la vede. Senza pensarci su un istante, si catapulta nella classe dove l'amico Woodland sta facendo lezione. I due giovani si mettono subito al lavoro. Le loro serate dopo le lezioni diventano una febbrile ricerca di sistemi di definizione che consentano di immagazzinare informazioni di facile reperimento. Provano con un inchiostro che si illumina sotto la luce ultravioletta, ma si rivela un sistema molto costoso e lungo da realizzare. Poi Woodland ha un'intuizione. Forse si potrebbe utilizzare l'alfabeto Morse. È conosciuto in tutto il mondo ed è veloce come sistema. Ma come abbinarlo ai prodotti? Punto, linea, punto. Una serie di segnali che vanno a comporre numeri o lettere, ma decisamente difficili da leggere, con il rischio di commettere errori. L'idea sarebbe buona, ma l'alfabeto Morse è un codice audio. A loro serve un codice su carta, rappresentabile graficamente. Norman e Bernard sentono che la soluzione è vicina, ma non la trovano. Forse è meglio prendersi qualche giorno di pausa e andarsene in vacanza. Destini incrociati. Se ne vedono per il mondo che sono osti, cavadenti, boia, eccetera, o secondo le fortune, grandorienti. C'è chi taglia e cuce brache, chi leoni addestra in gabbia, chi va in cerca di lumache. Io fo buchi nella sabbia. I poeti, anime elette, riman laudi e piagnistei. Per l'amore di Giuliette dico i mai sono i Romei. I fedeli questurini mettono argine alla rabbia dei colpevoli assassini. Io fo buchi nella sabbia. Sento intorno sussurrarmi che ci sono altri mestieri. Bene, a voi, scolpite marmi, combattete il beriberi. Allevate ostriche a chioggia, filugelli in cadenabbia. Fabbricate parapioggia. Io fo buchi nella sabbia. O cogliete la cicoria e gli allori, a voi Dio v'abbia tutti quanti in pace e in gloria. Io fo buchi nella sabbia. Ah. È una bizzarra poesia di Ernesto Ragazzoni, poeta novarese di fine Ottocento, che Vittorio Gassman recita con la sua infinita maestria. C'è chi nella sabbia fa buchi, come Ragazzoni, chi la usa per realizzare meravigliose sculture, chi semplicemente ci si sdraia a prendere il sole. Norman Woodland, professore universitario della Drexel University di Filadelfia, la sta osservando con intensità durante una vacanza. È la sabbia di Miami, una delle spiagge più belle del mondo. È venuto qui a casa del nonno per riposarsi un po' dalle fatiche della sua professione, e non solo. Sono alcuni mesi che insieme all'amico e collega Bernard Silver sta studiando un'invenzione. I due giovani ingegneri hanno accolto la richiesta giunta al loro preside da parte del direttore della catena di supermercati Food Fair. Il commerciante chiede al rettore di far studiare ai molti ingegneri, fisici, chimici della sua università un sistema per definire, catalogare e dare, per così dire, un passaporto ai prodotti in commercio. Immaginiamo cosa significhi avere in un supermercato migliaia di referenze, quindi migliaia di prezzi, un ugual numero di ordini, di riordini, le giacenze, i resi, roba da diventare matti. E tutto questo fatto a mano, senza l'aiuto di alcun macchinario. Un meccanismo sociale destinato a diventare inevitabilmente obsoleto, come ricorda il famoso divulgatore scientifico Carl Sagan. La nostra evoluzione è avvenuta in maniera molto lenta per tantissimo tempo. Cresceva la popolazione, ma poco alla volta, e di conseguenza cresceva l'industria, la tecnologia. Poi, improvvisamente, boom, c'è stato un incremento esponenziale. È cresciuta la popolazione, la tecnologia, l'inquinamento. Noi siamo sempre gli stessi e dobbiamo affrontare situazioni nuove. Ma questo è il bello dell'umanità, la sua grande capacità di adattamento. Gli esseri umani sono intelligenti, è il vantaggio che hanno su tutte le altre specie viventi. Noi pensiamo e costruiamo. Woodland e Silver si mettono subito all'opera, ma non è affatto semplice. Cosa mettere sui prodotti? Cosa scriverci? In che forma per renderli riconoscibili uno ad uno? I due ingegneri pensano a un codice internazionale, qualcosa che tutti conoscano, il codice Morse. Sì, va bene, ma è un codice audio, non è un codice visivo. Sarà che sono a fine corso, è luglio, sarà che i due sono stanchi morti, ma la soluzione non arriva. Woodland decide di prendersi qualche giorno di riposo e va a trovare suo nonno che abita a Miami. Mentre è sulla spiaggia in dolce far niente, Norman osserva le persone che lo circondano. Alcune ragazze sdraiate al sole, una signora che spalma la crema sulle spalle di un bambinetto, un uomo che legge il giornale e un ragazzo che ha spianato la sabbia e disegna un grande cuore trafitto per la sua fidanzata. Certo, la sabbia può essere come un'enorme lavagna. Il giovane spiana un tratto di spiaggia e ci scrive sopra, in codice Morse, la parola aiuto. Sull'affollata spiaggia di Miami, Norman Woodland sta osservando quella serie di punti e linee che ha tracciato sulla sabbia. Sono troppo sottili, si possono confondere. Come renderli più visibili? Con il dito, il giovane parte dal punto e scende giù verso di sé, tracciando una barra verticale. Lo stesso fa con la linea, che di conseguenza risulta essere una barra più larga. E così via. Quando arriva alla fine della parola, ha creato un rettangolo che contiene una serie di barre scure, più o meno spesse, e una serie di vuoti tra una lettera e l'altra. Una rappresentazione bidimensionale dell'alfabeto Morse. Ecco l'intuizione tanto desiderata. Woodland corre al telefono più vicino e chiama l'amico Silver. L'idea è strepitosa. Bernard la chiama subito con quel nome che oggi è diventato di uso comune ed estremamente familiare, barcode. Estensione verticale del codice Morse, il barcode inventato da Woodland e Silver viene in un primo tempo trasformato dai due ingegneri in un occhio di bue, cioè una rappresentazione circolare, ma poi torna a essere un rettangolo con una serie di barre e spazi bianchi per un totale di 92 linee corrispondenti ad altrettante cifre o lettere. Depositammo il barcode. Era il 20 ottobre del 49 quando Bernard ed io ricevemmo il numero di brevetto 26-12-994 per il nostro apparato e metodo di classificazione. Eravamo felicissimi, anche se per il momento non è che funzionasse granché. I primi tentativi di riconoscere i codici a barre con un fotomoltiplicatore, originariamente utilizzato per la lettura ottica delle bande audio dei film, non hanno successo. L'eccessivo rumore dei dispositivi termoionici, il calore generato dalla lampada utilizzata per l'illuminazione e il peso risultante dall'insieme si rivelano ostacoli insormontabili. Ma poi Norman ha un'altra idea decisiva. La IBM cerca ingegneri e lui, convinto che si tratti di un'azienda che può aiutare molto la sua invenzione, accetta un impiego da loro. È nei laboratori IBM che la tecnologia del barcode acquista lentamente quelle specifiche che successivamente, con lo sviluppo dei laser, porta i lettori a essere costruiti a prezzi più accessibili e permette la decodifica vera e propria dei codici. Da questo momento in poi, la diffusione del barcode diventa esponenziale. I vantaggi che questa invenzione comporta sono tali che in breve qualsiasi oggetto in commercio, con una progressione velocissima, viene dotato di un barcode. Un successo grandioso, che purtroppo Bernard Silver non può godersi. Nell'estate del 1963 ha un terribile e mortale incidente d'auto. Benvenuti alla Casa Bianca. È un onore dare il benvenuto ad alcuni dei nostri cittadini più dotati. Siamo oggi qui per conferire la Medaglia Nazionale per la Scienza e la Tecnologia, conferita ogni anno a innovatori nelle diverse discipline, leader di aziende, uomini e donne che hanno ricevuto riconoscimenti di grande prestigio, come il premio Nobel, e ora aggiungono alla lunga lista dei loro premi questo, che è il più alto riconoscimento che un presidente possa loro riconoscere. È il presidente George W. Bush che nel 1992 conferisce a Woodland la National Medal for Technology, il più ambito riconoscimento scientifico degli Stati Uniti d'America per la sua grande invenzione, il barcode. Norman è commosso di questo premio così speciale e non può che dedicarlo al suo amico e collega Bernard Silver, scomparso da tanti anni, che non ha potuto godersi i risultati di quella sua magnifica intuizione. Quest'anno i due ingegneri sono stati inseriti nella National Inventors Hall of Fame, il prestigioso riconoscimento che include i nomi dei più importanti inventori del mondo che hanno contribuito all'avanzamento dell'umanità nei più disparati campi della scienza, dell'economia e del campo sociale. Oggi il barcode non è più da considerarsi solo un efficace e oramai imprescindibile sistema di decodifica dei prodotti e dei beni di consumo. Esso ha rivoluzionato il sistema di immagazzinamento dei beni, la gestione dei dipendenti delle aziende, il sistema sanitario, rendendolo più attendibile. Ed è divenuto parte integrante delle nostre vite, tanto da risultare addirittura ispiratore di opere d'arte. È il caso dell'artista americano Scott Blake. My name is Scott Blake and I make art with barcodes. Sono Scott Blake e faccio arte con i barcode. Non mi considero un artista del computer, semmai un artista digitale. Realizzo ritratti delle star, Elvis, Marilyn Monroe, Madonna, e uso veri barcode di veri prodotti. Barcodes from real products. Sicuramente una delle invenzioni più importanti e anche più originali della nostra epoca, rivoluzionaria eppure estremamente popolare, il barcode è il risultato di una passione condivisa che unisce Norman Woodland e Bernard Silver per l'eternità. Un risultato che dimostra come non sempre è effimero quello che viene scritto sulla sabbia.